Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. A tutti. Il formaggio che completa il vostro pranzo. Invernizzi in vernizzina, che regala. Sì, regala la mucca carolina. È orribile ascoltarlo oggi, non so come ho fatto appassionarmi per la mucca carolina. Eppure fu il primo essere femminile che veramente io ho amato. Era la testimonial di un formaggino, noi andavamo pazzi per i formaggini, anche se non immaginavamo nemmeno cosa ci fosse dentro, ma ci rappresentava in sé la nutrizione, con quelle belle tettone rosa, tutta fatta a fiori, qualcosa che ci faceva bene. Poi soprattutto mangiavamo i formaggini perché era una sorta di loop per avere le figurine per poter acquistare i punti della mucca carolina. Quindi mangiamo tanti formaggini, compravamo la mucca carolina con i punti dei formaggini, poi la mucca si sgonfiava, si bucava e noi nuovamente rimangiavamo i formaggini. Questo è un esempio molto lontano, affonda le radici negli anni del nostro boom economico, naturalmente è l'idea che ha di brand oggi un sessantenne, legato comunque ad alcuni marchi che hanno impressionato la sua fanciullezza, la sua adolescenza, la sua età giovanile. Io ricordo il cavallino della Mobil, la conchiglia della Shell, il cane a sei zampe della Supercorte Maggiore, sempre qualcosa che non legavo e allucinavo coscientemente poi il prodotto che rappresentava, la multinazionale che c'era dietro, ma comunque erano oggetti che rappresentavano per me consumi felici. Oggi naturalmente il concetto di brand si va molto specializzando, il brand è qualcosa di molto importante perché noi stessi siamo continuamente influenzati da brand che ci ricordano comunque degli oggetti o dei generi di consumo. Il consumo non è più legato soltanto al formaggino come era ai miei tempi, che era un elemento primario della nostra crescita. Il costume è dedicato anche alla nostra vita relazionale, alla volontà di incontrarsi con le altre persone. Quindi questa mattina vorrei sollecitare gli ascoltatori a ricordare quali sono i brand importanti alla loro vita degli anni passati, alla loro vita attuale. Qual è oggi il brand, cioè il marchio che ricorda un prodotto o qualcosa che voi usate che maggiormente vi influenza, che se l'avete, diciamo, se vi ci contaminate vi sentite bene. Perché voglio parlare di questo? Voglio parlare di questo perché oggi parleremo di uno studio, lo studio Best Global Brands di Interbrand, che vengono presentati i primi 100 brand globali a maggior valore economico, quelli che naturalmente fanno girare più soldi, ma noi rimaniamo legati, ancorati in maniera del tutto nostalgica all'antico brand che ormai non fa girare più nulla, per com'è la mucca carolina è sgonfia per sempre. Nessuno potrà capirmi se da piccolo non ha mai subito il fascino della mucca carolina, la pupazza gonfiabile per bambini dalle belle tettone rosa. Era una mucchetta di plastica che arrivava a casa in scatola e si poteva gonfiare a bocca. Dipinta a fiorami come la tappezzeria di un divano, si poteva avere con i punti del formaggino Milione della Invernizzi, quello a triangolo, con la confezione del bambino che si leccava le dita. Il formaggino era tutto per noi. Era la nostra fantastica droga. Con un bel po' di cartoncini del leccadita ti davano quella mucca carolina. Non serviva a nulla in fondo. La portavi a casa, la gonfiavi e ne sniffavi quel buon odore di plastica tossica. Plastica tossica mi ricorda la mia fanciullezza. Le 12:15:30 mi ricordano di dare le informazioni per il traffico. 800 24 00 24. Quali sono i brand della vostra vita? A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Abbiamo detto questa mattina avremmo dato delle informazioni rispetto a quelli che sono i brand con brand globali con maggior valore economico che ogni anno vengono classificati appunto da Interbrand. Lo dico questo perché molte volte sono dei marchi che noi conosciamo, usiamo tutti i giorni, dei quali ci sentiamo attratti. Molte altre volte sono dei marchi che consideriamo lontani dal nostro potere di acquisto, ma rientrano sempre comunque nei nostri desideri più riposti. Professoressa Maria Carmela Ostiglio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Lei è coordinatore scientifico della Brand Academy della SDA School of Management della Bocconi, sì. È responsabile del Brand Management all'interno del, appunto, del Master che si occupa appunto di marketing management alla Bocconi, sì. E questa mattina vorrei da lei una indicazione rispetto ai motivi per cui alcuni brand prevalgono sugli altri, di là della capacità comunque di stabilire dei buoni rapporti con i propri clienti, con i propri utenti, con le persone che devono comunque essere di riferimento rispetto all'offerta. Allora, io partirei dal dire che il branding di per sé rappresenta già una scelta per le persone e per le organizzazioni, è il motivo per cui poi il brand incide nella vita delle persone. Normalmente nel marketing noi diciamo che un brand è importante quando si fa preferire, scegliere. Ho sentito prima che parlavate della mucca Carolina, anche quella è una componente del brand. Ognuno ha le sue debolezze, io non riesco a dimenticarmela dopo 60 anni, evidentemente qualcosa c'era. Ha inciso profondamente nella sua memoria ed ha costruito questo attaccamento alla marca così profondo che è assolutamente non cancellabile. E quindi non soltanto per i tempi, tuttora tutti i character, cioè si chiamano così i personaggi, che servono proprio a dare umanità e umanità, ma anche far vivere quasi un'emozione, un desiderio, un amore profondo rispetto a quella che era Susanna tutta panna, la mucca Carolina, e anche alle persone, no? Alle persone in carne e ossa. Ecco, io vedo, do un'occhiata diciamo ai primi 100 che sono stati classificati appunto in questo studio che è stato fatto, Best Global Brands di Interbrand, e vedo che al primo posto naturalmente è la Apple. Vogliamo fare, se possibile, un punto riferimento fra la mela morsicata, perché poi è quello che in fondo rappresenta l'Apple, che è qualcosa di irrinunciabile, è qualcosa che già dà esistenza avere un prodotto Apple nelle mani, poi uno non si preoccupa esattamente sulle funzionalità, sull'effettivo valore tecnologico. È importante avere Apple. In questo caso su cosa si è giocato? Apple sicuramente, al di là del fatto che, mi scusi se sotto c'è un treno che sta passando, mi auguro che questo non disturbi. Ma lei dov'è? Sulle rotaie? Dove si trova in questo momento? Io sono alla stazione di Piacenza, le ho detto tutto, quindi non sono proprio sulle rotaie, sono fuori dalle rotaie, meno male, altrimenti non oltrepassi la linea gialla, mi raccomando. No, assolutamente. Le dicevo, Apple, al di là del fatto di aver scelto anche un elemento quale la mela morsicata, che di per sé è un elemento semplice che si fa ricordare, quindi immagini come questo incide nella memoria delle persone, perché la mela è nella vita quotidiana. Se a questo poi aggiungiamo il design, l'esigenza di essere continuamente collegati, la capacità anche, adesso non si può non dimenticare Jobs, ma la capacità stessa di Jobs di trasferire emotivamente con una certa empatia anche quello che era Apple, rendendolo inizialmente esclusivo, pensi alla coda, no? Che c'è ogni volta, adesso credo che in questi giorni, credo proprio oggi, lanciano la nuova versione dell'iPhone. Sì, ci sarà come sempre la gente accampata. Esattamente. Ma è un rito sociale che va oltre l'effettiva consapevolezza del valore del prodotto. Bravissimo. Però attenzione, perché Apple è riuscita a trasferire, oltre a quello che lei giustamente diceva, che è un valore funzionale collegato allo smartphone, ma di smartphone ce ne sono tanti altri, e anche la dimensione di beneficio emotivo, psicosociale. Il possederlo, da un lato, inizialmente faceva status, poi è diventato qualcosa di irrinunciabile, perché Apple, col fatto che può inserire per esempio all'interno le fotografie, il poterle rivedere, potersi ricordare di quel momento, diventa irrinunciabile. Allora volevo un attimo con lei fare un salto sghembo rispetto ai valori aggiunti che di cui si trova intriso un brand. Noi abbiamo citato Apple. Apple è naturalmente legato alla tecnologia, legato alla volatilità, al cloud, alla nostra vita raccontata che persiste in un luogo immateriale, quindi in sé una trascendenza. Invece l'esatto opposto, se vogliamo dire, è ad esempio le agendine Moleskine, che tutto lo sappiamo, le vendono dappertutto, su quelle agendine nere, sono caricate di un forte valore emotivo e storico, perché era l'agendina di Chatwin quando andava in Patagonia, su cui faceva i suoi appunti. Quindi noi ce la compriamo non avendo magari cose fantastiche da raccontare, ma rende il fatto di appoggiarla su un supporto così antico, che ormai è riconoscibile perché si vede subito la Moleskine originale da quella tarocca cinese, che molti la legano al proprio marchio, perché si risparmia poi nei gadget che si distribuiscono. Ho sentito Maria Sebregondi, che è la responsabile brand communication di Moleskine, che proprio risponde a questa domanda: come si può proporre oggi un marchio di un oggetto analogico in un mondo in cui sembra prevalere la coscienza digitale? Moleskine si muove nel mondo analogico, ma si muove soprattutto in quel continuum, in quella modalità di vita che oggi ci caratterizza tutti, cioè un passaggio continuo da gesti analogici a gesti invece digitali, dall'uso di strumenti e tecnologie molto antiche a invece tecnologie molto avanzate. Quindi c'è una continuità nelle nostre vite, un continuo passaggio dall'uno all'altro. Moleskine si pone come un abilitatore di creatività e diciamo che riteniamo di essere rilevanti per il nostro pubblico, perché in questa condizione di sovraccarico di informazioni in cui tutti viviamo, una specie di infoobesità, diventa fondamentale poter selezionare, curare e editare le proprie esperienze. Quindi la possibilità di tenere traccia di ciò che è rilevante, di fissare, diciamo, con un gesto forte come quello della scrittura su carta o del disegno o del tracciare segni fisicamente su dei supporti analogici, è qualcosa che è dimostrato anche dai neuroscienziati come capace di mettere in moto emozioni più profonde, di creare esperienze più significative. Inoltre, se pensiamo alla condizione di mobilità estrema in cui tutti viviamo, ecco, spesso le idee vengono nei momenti più impensati, mentre si è in metropolitana o mentre si corre da un gate all'altro di un aeroporto, e non sempre è così facile attivare un device digitale. Spesso è molto più semplice e rapido avere a portata di mano in tasca un taccuino e una matita. Moleskine lavora per far evolvere la carta, per espanderla anche oltre i confini e i bordi del foglio, quindi trasferire in modo semplice e fluido nel mondo digitale le proprie note, informazioni e progetti. Per questo abbiamo creato taccuini speciali sui quali si può scrivere e anche trasferire e poi rendere cercabili e condivisibili le note prese. Sono queste le nostre collaborazioni con Evernote oppure con il grande colosso della creatività Adobe, con il quale attraverso la Creative Cloud abbiamo creato un sistema molto fluido di trasferimento di uno schizzo, un disegno su carta al mondo digitale e alla sua lavorabilità. Osvaldo, buongiorno. Buongiorno. Io ho più o meno la sua età, quindi mi ricordo anche il Tide, non solo la mucca Carolina, anche quella. Che poi tutto il mondo chiamano Tide, noi lo chiamiamo Tide. Sì. Ma perché se lo ricorda? Esatto, perché se lo ricorda? Perché c'erano dentro i giocattoli. C'erano i giocattoli, mamma, compra il Tide. E puzzavano di detersivo. C'erano delle schifezze di plastica che puzzavano di detersivo, ma esatto, non vedevamo l'ora che la mamma comprasse il Tide. Sì. che non c'entra assolutamente niente con quelle che sono le strategie che oggi lanciano un brand. No. Eravamo tutti probabilmente molto più ingenui. Professoressa Maria Carmela Ostiglio, lei sente, io per quanto noi vogliamo tenere alto il livello, diciamo, dell'approfondimento, oggi la pancia del pubblico che risponde si ricorda delle cose molto legate a esperienze fanciullesche, a volte anche delle sinestesie, il pupazzetto del Tide che odorava di sapone, di detersivo. Oggi vedo che però è molto cambiata la strategia. Allora funzionava perché eravamo tutti più bambini, tutti più ingenui? Ma non credo che sia cambiata, perché per esempio il trovare un premio così chiamato, il gifting pack, all'interno delle confezioni, è una cosa che delle confezioni di detersivo, quello a cui faceva riferimento Osvaldo, in realtà c'è ancora. Probabilmente non si trova più l'omaggio, il gift di plastica, ma si trova un buono sconto. Credo di averlo visto ultimamente, non faccio i nomi di brand giusto per non essere di parte. Possiamo fare tutti, parliamo ma di per esempio credo che su in Dash ci fosse la card per poter utilizzare uno sconto su Zelando. Questo però dà l'idea, Zelando sito online per la vendita online di abbigliamento, comunque, quindi come vede è che è cambiato, no? Probabilmente non c'è più l'omaggio di plastica, ma continua ad esserci un omaggio differente che di cui si può fruire andando online ed effettuando gli acquisti. È un iperomaggio perché in realtà ci porta da un'altra parte, certo, non ti sarisce. È una bravissimo. Porta aperta verso un altro tipo di consumo. Certo, assolutamente, un po' anche come Moleskine, no? La stessa cosa, una porta aperta per poter incrementare in un certo qual modo il legame con la marca. Ci sentiamo, ci fermiamo soltanto un istante poi riprendiamo perché mi interessa molto capire come cambia nel tempo l'affezione per il brand, però rimangono, mi sembra aver capito, alcune caratteristiche fondamentali, inalienabili, legate proprio al nostro apparato biologico e al rapporto che abbiamo con il piacere. Perché noi scegliamo un marchio? Perché ci fa piacere avere addosso o essere segnati, contrassegnati, marchiati, tatuati di quel marchio. A tra poco. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Melog. Cronache meridiane. Questa mattina stiamo parlando di brand, termine che va a identificare il marchio che contraddistingue dei prodotti, ma dei prodotti non semplicemente ascrivibili a degli oggetti, a delle modalità di consumo, ma anche qualcosa che incide profondamente nella nostra sfera emotiva. Infatti gli ascoltatori sono sollecitati a ricordare quelli che sono stati i brand della loro vita. Oggi ne parliamo perché abbiamo dato notizia dello studio Best Global Brands di Interbrand, che ha presentato i brand globali a maggior valore economico. Abbiamo già detto, il primo è Apple, poi c'è Google, poi c'è Coca-Cola, poi c'è Microsoft. Ma prima di entrare nello specifico dei brand che si sono assegnati, diciamo, un posto alto in questa classifica, volevo sentire qualche ascoltatore. Renato, buongiorno. Renato? Non c'è più. Due brand. Uno è quello del terzo posto, ossia la Coca-Cola. Quindi adesso perché se lo ricorda? È perché c'è un motivo, sì. Io sono, come ho detto, sono nato nel 1936. Non mi ricordo quando la Coca-Cola è arrivata in Italia, però mi ricordo che molti facevano tagliare la Coca-Cola a un certo punto in cima che venisse un bicchiere, no? Da un vetraio. Sì, è un bricolage che fanno i carcerati, cioè la tagliano con un filino che si dà fuoco e diventa un bicchiere. Anche a casa io, sì. Sì, abbastanza sì, triste però, come cosa in sé, mi dà l'aria di quel... Sì. Io me la sono ricordata che già, non so, 60 anni fa, non so quando è uscita la Coca-Cola in Italia, quando è arrivata, ecco. E poi mi ricordo invece le figurine Panini, e avevano questo particolare, che lei doveva comprare una caramella e dentro sotto c'era questa figurina e erano tutte le squadre di calcio del campionato. Sì, le ricordiamo, certo. Sì, abbiamo capito. Fermo, Renato, sennò due ricordi sono già troppi. Le figurine Panini, che non è esattamente un brand, era un oggetto che poi adesso è passato anche di proprietà, e la Coca-Cola. Coca-Cola se la ricorda perché tagliava la bottiglietta a metà. Paradossale, il simbolo della Coca-Cola era proprio questa bottiglietta con la sua particolare forma, pensata, studiata, sinuosa, seducente. Lei si ricorda la versione bricolage orrendo, cioè quelle tagliate a metà per farne un bicchiere rimediato che tagliava le labbra naturalmente, che mai il taglio era preciso. Paola. Buongiorno. Sì. Allora, io ho chiamato perché il brand a cui sono affezionata attualmente, nonostante abbia una grande età di 48 anni, quindi qualcosa nei ricordi c'è, però ho proprio cambiato ed è un brand, diciamo così, che è di nicchia ed è quello del fair trade, cioè il commercio equo e solidale. Io quando vedo prodotti mi sento di questo... Tocca al cielo con un dito. Vabbè, lei vuol farla buona oggi, vuol dire ecco, sì, ma vuol farla buona, quella brava che segue le cose, sì, però no. Il valore economico è vicino allo zero, se proprio vogliamo dire questo. Sì, è bello, siamo tutti buoni per il commercio equo, ma onestamente stiamo parlando di cose che in realtà hanno un'idea molto corrosiva e per questo ci piacciono. Io amavo la mucca Carolina, che era l'esempio del formaggino, la sintesi più assurda e l'opposizione a ogni qualità di formaggio, una pasta senza sapere che fosse, e mi ha impressionato. Non credo ci saranno bambini che fra 30 anni ricorderanno il commercio equo. O sono troppo spietato, professoressa Maria Carmela Ostiglio? No, non è assolutamente spietato. Vuole fare la quella buona. Tenga presente che siamo anche in un'epoca in cui, se osserviamo i comportamenti di consumo e quindi il consumatore ha bisogno anche di ritrovare delle radici, quindi da una parte le ritrova nel ricordo, quello che lei ha della mucca Carolina o di Susanna Tutta Panna o anche il ricordo della Coca-Cola. Io per esempio, mio figlio non sapeva parlare, però dovunque noi passassimo riconosceva il brand Coca-Cola e me lo chiamava Cocoi, no? Quindi senta, c'è un motivo proprio che in questa classifica c'è Apple, secondo è Google, poi saltiamo Coca-Cola terzo, poi c'è Microsoft e IBM. Gli italiani arrivano 50esimo posto Gucci e 69esimo posto Prada, che sono dei marchi ormai internazionali che rappresentano la moda, il fashion italiano e via dicendo. Certo. Si dà una spiegazione di questo? Sì, noi in Italia, a parte il fatto che dire che Gucci è ancora italiano, insomma, sì, è un attimo, ecco, diciamo, è un attimo, però in realtà noi in Italia siamo molto bravi, siamo bravi in termini creativi, siamo bravi in quei settori dove anche il labor intensive, quindi sono d'accordo con la signora che parla di ecosolidale, dove io ricollego l'originalità dei prodotti, l'artigianalità. Siamo molto bravi in questo. Che sarebbe bandera, per dirlo in parole povere. Siamo meno bravi probabilmente a valorizzare queste cose, che vuol dire anche saperle gestire, fare delle execution che rimangano molto nella mente delle persone. Non c'entra nulla con questa classifica, mi è venuto in mente però di citare la riverginazione del mulino bianco con Banderas e la gallina, un mugnaio spagnolo che improvvisamente ridà valore al mulino bianco, che era era il sogno inventato da Alberoni, questo mulino bianco, il segno della famiglia. Banderas, che tutta la vita ha fatto il personaggio corrosivo, un po' terribile, un po' duro, ma anche un po' motion in altri film ai tempi che lavorava nell'inizio della sua carriera con Almodovar, dicevo. Ma a parte questo, dico, qual è il senso di questa sorta di immissione di novità? Immissione di novità in questo caso, i brand che lei mi ha citato sono tutti brand tecnologici, molto legati a quello che ormai è dentro la nostra vita, che è la tecnologia, la connettività, la possibilità di scambio, di condividere, che sono degli elementi importanti. Che però non avrebbero modo di sopravvivere se non avremmo ancora qualche ricordo, anche allucinazione dell'antico mondo, le cose buone fatte dalla nonna, e siccome le nonne non ci sono più e oggi se ne vanno in giro nei paesi tropicali, è giusto che la forza di un brand sia ricostruire questa sorta di dimensione. Lei ha citato i brand tecnologici, voglio appunto sentire un altro contributo, quello di Carlotta Ventura, che è direttore brand strategy e media del gruppo Telecom Italia. TIM in realtà è un brand che ha racchiuso in sé tutti i servizi, telefonia fissa, mobile, internet, contenuti digitali, servizio cloud, insomma è la ricerca di un brand unico che rappresenti quello che oggi per noi è il maggior valore, è l'interconnettività, è la socializzazione attraverso le protesi elettroniche. Noi siamo al centro proprio di un passaggio importante per la nostra azienda, perché stiamo passando dal marchio Telecom al marchio unico commerciale TIM. Questo lo facciamo per dare ai nostri clienti, che sono circa 120 milioni nel mondo tra fisso e mobile e imprese, dare un unico punto d'ingresso, perché adesso il mercato è convergente, la tecnologia è convergente e non dobbiamo far faticare i nostri clienti per unire diversi marchi e diverse offerte, quindi quello della fissa, quello della mobile, quello del digital solution, del cloud, ma o dell'intrattenimento, ma attraverso un unico punto d'ingresso avere tutto quello che gli serve facilmente, perché la parola chiave in questo momento è semplicità. Un altro tema fondamentale è sicuramente quello di non tradire il patto che l'azienda fa con il suo cliente, cercare di essere all'altezza delle aspettative, che soprattutto per industrie come la nostra sono, diciamo, complesse, perché sono del singolo, cioè ognuno si aspetta un servizio adatto alle proprie necessità. Quindi appunto il tema del mantenere la promessa, di essere coerente con la promessa d'offerta, con quello che ci si aspetta dal prezzo, semplicità e coerenza sono due parole chiave, insieme ovviamente a quelle legate al prodotto, che essere rilevanti per il cliente e possibilmente differenziarsi dall'offerta della concorrenza. I temi fondamentali per entrare in queste classifiche di brand ranking, come questi best global brands, è il fatto di avere una dimensione globale, e quindi noi abbiamo puntato su TIM anche per questo, non soltanto perché è il marchio della mobilità, quindi della convergenza sulla persona, e poi di avere una architettura di marca che sia un ecosistema, non un'architettura complessa. I brand leader, appunto, che sono Apple piuttosto che Google, o i cosiddetti GAFA brands, quindi Amazon, Facebook, che sono i brand di grande successo adesso, sono degli ecosistemi cui hai accesso attraverso un unico marchio che rappresenta tutto il portafoglio d'offerta. Sarò molto curioso a capire se poi questi ecosistemi, che oggi vengono studiati perfettamente e vengono poi racchiusi in un unico marchio, quale traccia lasceranno alle generazioni future. Chissà se fra 20 anni, 30 anni, oggi i bambini smanettoni nel loro smartphone ricorderanno con la stessa nostalgia o con la stessa impressione genetica nel loro patrimonio genetico Facebook, Twitter, i motori di ricerca Google, come oggi ad esempio Patrizio ricorda la raccolta dei punti che faceva da ragazzo. Patrizio, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti. Allora, mi ricordo su Topolino Libretto, che era il classico Walt Disney, c'erano dei bollini che una volta raccolti, appiccicati su un apposito raccoglitore. Quelli del Club di Topolino? Per diventare socio del Club di Topolino. Benissimo, ti dava diritto a un blocco notes, a una penna, un distintivo, un attestato, certo. E poi a delle cariche sociali del club, socio, ispettore, consigliere. Oggi la stessa cosa accade nelle community dei grandi brand, via via che tu stai dentro, fai traffico e tutto, ti danno dei gradi gerarchici. Io mi ricordo c'era il bollino d'oro, ispettore, Club di Topolino, è una stupidaggine, aveva un blocchettino di carta e una pennetta, ma a noi ci sembrava il massimo. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Federico, buongiorno. Buongiorno, siamo da Treviso e quando ero piccolino, sono figlio di un calabrese, Carnagione Scura, mi chiamavano, avevo questo soprannome Calimero. E facevo una raccolta dei punti della Milan. E s'attizzava con l'olandesina? Certamente, era veramente un divertimento. Che intuffava Calimero, dice, voilà, va come lava. No, Calimero, non sei nero, sei soltanto sporco. Fra l'altro è una cosa terribile, perché c'era un sottofondo bieco che sul fatto che essere neri era considerato un limite. Il pulcino nero era il pulcino emarginato, poi grazie a Dio si lava e quindi torna bianco come gli altri e può essere riaccettato dalla società. Vedete come cambia poi la sensibilità nel tempo. Allora nessuno ci pensava. Oggi in realtà ero chiamato affettuosamente Calimero, no? Calimero, ma certo. Però Giuseppe, ero orgoglioso. Era studio, bravo. Giuseppe. Buongiorno dottore, come sta? Ma che tiriamo avanti, si campicchia. Senta, lei capisce di che cosa sto parlando, no? No, se non me lo dice non ho ancora la preveggenza. Guardi, io avevo 16-17 anni, ho cominciato a lavorare, ho cominciato alla scuola allievi Fiat, a cominciare a fare il disegnatore, ed era il mio obiettivo, lavorare in Fiat, e quindi per me era il marchio più assoluto, non conoscevo nient'altro. Beh, le dava il pane. Quando dopo 7-8 anni ho capito che dietro al marchio c'era l'azienda, c'erano le persone, c'erano, ho cominciato ad avere un po' di delusioni, e poi pian pianino con nello zaino l'esperienza Fiat ho fatto altre cose, e ho in mente una questione personale / professionale. Fino all'81 io ho lavorato in altra azienda, ho avuto l'idiosincrasia per i computer. Fermola Giuseppe, ha detto tutto, no, la sua idea in questo momento è fuori tema. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bruno Ballardini, ci tengo sia lui a concludere questa trasmissione, perché è un esperto di marketing, da anni si è occupato di marketing, di pubblicità, comunicazione strategica, ha scritto libri sulla pubblicità, anzi sulla morte della pubblicità, ma da qualche tempo si occupa del brand applicato non tanto a prodotti ma a sistemi di pensiero. Ha scritto prima un libro Papa Francesco, perché il Papa è un genio del marketing, edizioni PM, poi l'ultimo libro, abbiamo spesso parlato, legato appunto all'Isis, il marketing dell'Apocalisse. Ci sintetizzi questo slittamento come è avvenuto, mentre i grandi marchi sono sempre gli stessi da 50 anni, si fanno le loro classifiche, come sta cambiando l'applicazione dei concetti del brand a sistemi di pensiero? Ecco, allora io volevo fare una breve premessa, cioè sottolineare il fatto che le classifiche che vengono spesso pubblicate non contano assolutamente nulla, perché non provengono da una segmentazione del target, cioè non si può mettere in una stessa classifica Apple e Fendi, perché sono prodotti, o anzi brand, che si rivolgono a target completamente diversi, quindi valgono molto poco. Poi c'è stato... No, però sono espressi in valore economico, sono quelli che fanno più soldi. Per questo è la classifica, non è omogenea per questo, perché sono quelli che espressi in valore economico, capiamo, quello che tira di più nel mondo, tira più la tecnologia piuttosto che magari, che ne so, il fashion italiano in questo momento. Ecco. Io volevo rispondere alla domanda sulla, diciamo, la perdita di fascino delle marche, o lo slittamento verso un nuovo territorio dove contano fattori diversi dalla semplice affezione, perché no, man mano che noi ci ricordiamo la Mucca Carolina, Carosello, eccetera, tutte le marche, i brand presenti in Carosello, ma questi molti non esistono più. Si sta cercando di applicare una teoria che razionalizza l'amore verso il brand e, diciamo, il rapporto affettivo, come se fosse una grammatica. Questa in teoria è stata inventata da Kevin Roberts, ex amministratore delegato della Saatchi & Saatchi. Ora, dopo questo grande cambio a livello teorico, diciamo, molti hanno pensato che basta seguire certe regole per costruire subito un rapporto affettivo con la marca, e come anche sottolineava la responsabile Telecom, questo non si può costruire in poco tempo, cioè nasce, cresce da uno scambio, da una condivisione di valori, dalla soddisfazione del cliente e dal modo in cui entra nel cuore delle persone. Ma ci vuole un sacco di tempo, ci vogliono 20 anni. Ecco, quindi questo tipo di teorizzazioni nella disciplina del marketing ha portato alla stessa decadenza dei marchi. Quindi oggi, secondo te, i marchi rimangono su di una sorta di vita fittizia, come se fossero degli spettri che ancora hanno la loro esistenza, ma dietro in realtà non c'è più quell'afflato emotivo, o perlomeno se c'è è come il ricordo di una persona scomparsa. Durano molto poco, sono destinati a succedersi rapidamente, questo fa parte anche della... Quindi secondo te un sessantenne che oggi ha soltanto 15 anni, Fra 50 anni non avrà lo stesso ricordo che oggi hanno delle figurine Miralà, Panza di Pulcino Nero e via dicendo, per Facebook ad esempio? Assolutamente no, perché come siamo in una società liquida, stiamo anche in un marketing liquido, si sta polverizzando tutto quanto, non rimarrà nessun ricordo di un bel niente, quindi probabilmente questo porterà a riscoprire, forse, spero, mi auguro, i valori veri, e le marche dovranno adeguarsi a questa nuova umanità e a questo nuovo mondo. Bene, questo ci dà molta speranza a noi, forse dà meno speranza ai grandi brand che in questo momento stanno cercando di fare un'operazione di affezione. Grazie a tutti, a domani.